Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei sottoporvi una mia riflessione che vorrei fosse dibattuta. Noi ultra cinquantenni siamo considerati troppo vecchi per essere assunti, perché siamo ormai prossimi alla pensione. Dopo anni di lavoro e di esperienza acquisita, indipendentemente dalla crescita professionale, veniamo considerati solo per la data di nascita. Possibile che gli imprenditori non capiscano che possiamo dare tutto il nostro sapere anche per altri 10 anni? In 10 anni un'azienda può aprire, vivere un successo e chiudere. Dopo anni di lavoro abbiamo imparato che solo con costanza, sacrificio e dedizione si raggiungono dei risultati. La società di oggi richiede dei super professionisti, neolaureati e per giunta con esperienza. Ma l'esperienza non si acquisisce sui libri. Un tempo il dipendente anziano veniva usato per trasmettere conoscenze e professionalità ai nuovi. Ora si devono accettare delle convivenze con persone dotte, ignoranti e arroganti, che vanno a distruggere la collaborazione e il lavoro di squadra costruito in anni di confronto collaborativo per il miglioramento. Spesso, con confronti semplicistici basati solo sulla busta paga e non sul quadro completo dei servizi svolti, rischiamo di essere eliminati in quanto troppo costosi. Come disoccupati, dobbiamo compensare gli anni che mancano alla pensione adattandoci a qualsiasi nuova esperienza, al contrario degli statali che hanno la vecchia salvaguardata con pensioni d'oro e benefici vari. Tanti ultra cinquantenni, di fronte alla perdita del lavoro, passano bruscamente da una vita decorosa a una vita di rinunce e umiliazioni. Come possono, da disoccupati, versare i contributi degli ultimi anni? Doppio inganno, la pensione dei dipendenti privati viene calcolata sugli ultimi 10 anni di contributi. Perché, ad esempio, come in alcuni settori statali, non si dà l'opportunità a lavoratori over 50 di svolgere gli ultimi anni di lavoro come dipendenti di associazioni di beneficio pubblico, protezione civile, soccorso, guardie giurate, controllo codice stradale, controlli fiscali, eccetera, in modo da poter raggiungere serenamente e con orgoglio l'età pensionabile. Si accettano proposte e adesioni per promuovere una campagna di sensibilizzazione e richiesta ai nostri amati politici. Vittorio. La politica italiana del dopoguerra vive con il voto di scambio esplicito. Ovvero, ti faccio un piacere, ti risolvo un problema e tu mi voterai. E questo avviene casa per casa, persona per persona. E con la diffusione dei mass media, questo avviene attraverso la spettacolarizzazione del favore o della buona riuscita del progetto. Ovvero, uso la TV, la radio, i giornali per pubblicizzare quello che di buono faccio per gli elettori che mi hanno votato. Davide, da Padova. Vorrei commentare la proposta del ministro Brunetta di tagliare i finanziamenti al FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, motivata dal fatto che lo Stato dovrebbe finanziare la cultura, senza però mescolare cultura e spettacolo. Secondo me, invece, il FUS dovrebbe essere semplicemente abolito, poiché alimenta i più tipici difetti italiani, che nel cinema sono ancor più evidenti. Autoincensazione e nepotismo sono le prime cose che mi vengono in mente. Gli attori sono sempre quelli, i registi sono sempre quelli. E la maggior parte degli attori non sa recitare, e non per niente all'estero non combinano nulla. Lo stesso vale per registi e sceneggiatori che, raccomandati, si autocelebrano facendosi i complimenti da soli. Quelli bravi vanno a studiare cinema, recitazione. Noi invece siamo pieni di grandi fratelli e amici, gente che pensa di essere brava senza fare fatica. Non c'è un attore americano che sia diventato famoso senza aver fatto la gavetta, ma da noi no. Si va meglio a raccomandazioni, soprattutto poi quando c'è di mezzo la politica. Il meccanismo è questo. Faccio un film che nessuno capisce. Dico che sono di sinistra e mi faccio amico un paio di intellettuali e parlo male della massa ignorante e di Berlusconi. Iniziano a dire che sono troppo avanti, sono incompreso, che sono un artista. Gli artisti, si sa, non vengono capiti dalla massa. Se non incasso, la colpa non è mia, ma dell'ignoranza dilagante. Magari vinco un paio di premi ad hoc. A questo punto sono un artista conclamato e prendo i soldi. Andrea. Vorrei fare alcune considerazioni sul FUS e sul rapporto tra produzione culturale, mercato e Stato nel nostro paese. Un quadro ha il costo di un po' di vernice e della tela. Un film costa qualcosa di più. Se non ci fossero finanziamenti da parte dello Stato, come accade in Francia, dove con altri meccanismi lo Stato supporta in modo più sostanzioso tutta la cultura nazionale, compresi i film, non ci sarebbero stati, ad esempio, L'albero degli zoccoli, Padre Padrone, Gomorra, unico di questi ad incassare. Per sua natura, un film non potrà mai essere garantito negli incassi. Sarebbe troppo facile. Non esiste. È giusto rivedere il FUS, dato che così com'è non va bene, sia per i suoi meccanismi, sia per le commissioni che esaminano ed erogano i finanziamenti e che sono spesso incompetenti, clientelari, eccetera. Qui da noi, invece, vengono finanziati progetti che non meritano. Ed è inutile poi lamentarsi. Occorre una nuova legge che stimoli il rischio produttivo, una nuova legge per muoversi nella produzione e nella distribuzione. Il rischio ci sarà sempre, perché il film, a differenza delle fiction TV, non è un prodotto seriale. Si può sostenere che ogni film sia un prototipo, senza entrare nel merito del nostro prodotto nazionale che non vince ai festival e non si vende all'estero. Ci vorrebbero una nuova legge per un buon cinema di genere e dei fondi eccezionali per alcuni progetti che dovrebbero però veramente essere di grande interesse culturale e artistico, anche sapendo fin dall'inizio che incasseranno poco o nulla. Silvio. Credo che questo governo sia veramente alla frutta. La demagogia e il populismo stanno per saturare anche le anime semplici che gli hanno dato fiducia e creduto sino ad ora. Mi viene in mente la favola dei vestiti nuovi dell'imperatore. Il sovrano è nudo e la gente sta aprendo gli occhi. Sul merito dei finanziamenti alla cultura, non si può misurare tutto col mercato. È grazie alla logica del mercato se la nostra società è arrivata dove è arrivata. Si deve investire a volte anche a fondo perduto su qualcosa apparentemente senza mercato per avere la possibilità di far emergere un capolavoro in mezzo ad anche mille opere di poco conto. Andatevi a rivedere Corrado Guzzanti, che ospite della Dandini, imita Tremonti che giustifica il taglio dei finanziamenti alla lirica. La sua sintesi della Traviata, sono stufo di finanziare la solita baldracca che alla fine muore di tifo, vale più di mille dibattiti sul modo di concepire la cultura di questi governanti. Massimo, Firenze. Sono un vostro assiduo radioascoltatore e vorrei fare questo appello ai militanti del PD, premettendo che la mia famiglia era di sinistra. Cari militanti PD, liberatevi dal complesso delle caramelle rubate ai bambini. Ai tempi di Mani Pulite sembrava finalmente la volta buona per poter vincere, una volta eliminato l'avversario storico, e la gioiosa macchina da guerra di Occhetto ci aveva illuso. Poi arriva Berlusconi e vince, rubando le caramelle ai bambini del PC. Cari bambini dell'ex PC, una volta persi tutti quei compagni come me, che sono passati alla Lega o a Berlusconi, siete rimasti solo voi, intellettuali giornalisti, magistrati, saltimbanchi e registi, lontani dalla realtà, a prendervela con l'espressione del nostro voto, arrecando gravi danni al paese. Ancora una volta non avete capito niente. Non è eliminando l'avversario che si vince. Ci vogliono idee credibili, realizzabili, e bisogna dimostrare di essere in grado di realizzarle. Per questo Berlusconi ha vinto e vincerà. Non cercate di convincervi che sia perché alle TV e noi elettori non capiamo nulla. Berlusconi fa, e voi impotenti state lì a denigrarlo e a negarne i successi per compiacere i vostri fedelissimi, nuocendo al paese intero che non vi voterà più. Il rapido declino non è colpa del vertice, ma della base di intellettuali che si sente obbligata, ognuno nella propria funzione, a cercare di trovare qualcosa contro Berlusconi. Fermatevi e liberatevi del complesso, finché esistete ancora. Leonardo, provincia di Vicenza. Il cinema, contrabbandato per cultura, vuole soldi dallo Stato. E così fanno il teatro, le aziende, i giornali, eccetera. In Italia siamo tutti impiegati statali, perché anche i privati si mantengono con i soldi dei contribuenti, i quali in Italia sono solo le persone a reddito certificato, tutti gli altri lavorano in nero totale o parziale. Pietro. Per noi italiani, complice il modo in cui la studiamo a scuola, la storia continua a essere fatta solo da guerre ed eventi politici, non dalla cultura. Così come molti non capiscono che Mike Bongiorno, pur non essendo un personaggio politico o un militare, è però uno che ha dato tanto alla lingua e alla cultura dell'Italia degli ultimi decenni. Ecco perché i funerali di Stato gli erano dovuti. Pierangelo, Palermo. È da giorni che si ascolta l'appello di un dipartimento di Palazzo Chigi che esorta gli italiani a leggere di più. Vorrei capire bene se tale spot inciti semplicemente noi tutti a passare più tempo nella lettura di qualsivoglia scritto oppure ad acquistare più libri o giornali, giacché non si capisce bene su cosa si basino i principi ispiratori di tale spot, in quanto né a me né ad alcuno dei miei conoscenti è mai stato chiesto se leggiamo oppure no, o quanti libri abbiamo in casa, o quanti ne prendiamo in prestito dalle biblioteche. E quindi gioco forza a pensare che forse le statistiche si basino sulle vendite in un settore che sforna un numero impressionante di prodotti che, evidentemente, supera di gran lunga la domanda. E allora via con le pubblicità su radio e televisione, subdolamente proposte sotto forma di recensioni, che in ogni trasmissione, a volte persino nei telegiornali, presentano libri su ogni sorta di argomento. E c'è da farsi parecchie domande, retoriche. Queste presentazioni saranno a titolo gratuito, magari giustificate per il loro carattere culturale? E se così fosse, con quali criteri si scelgono libri e autori? E se invece sono a pagamento, perché non compare il sottotitolo «Messaggio pubblicitario»? E come mai non si sente mai una critica negativa su alcun libro? Possibile che siano tutti capolavori? Io avrei una cospicua lista di libri lasciati a metà. E da ultimo, abbandonando la retorica, perché il Ministero deve fare pubblicità all'editoria a spese dei contribuenti? Maurizio. Caro direttore, nei giorni scorsi lei ha accennato al fatto che in Italia si leggono pochi libri. Ma mi sembra che ci sia qualche problema anche sul fronte dei quotidiani. È vero che si legge sempre di meno? E quale ne è la ragione? È un problema solo italiano o è comune anche agli altri paesi con i quali ci confrontiamo? Luigi. Caro Luigi, è vero che in Italia si leggono sempre meno quotidiani. In pochi anni si è perso più di 1 milione di copie e l'Italia resta agli ultimi posti in Europa come indice di lettura. Di quotidiani se ne vendono ogni giorno poco più di 5 milioni, pari a 90 copie ogni 1000 abitanti, di cui, teniamo conto, 109 al nord, 105 al centro e solo 58 al sud. Siamo decisamente lontani dalle 624 copie ogni 1000 abitanti del Giappone, i 308 del Regno Unito, i 290 della Germania. Perché in Italia si legge meno e sempre meno? Colpa dei giornali o colpa dei lettori? Un po' di tutti e due. Si legge meno perché si ha meno tempo, si hanno altri interessi, ci si informa alla televisione o su internet. Si legge meno perché i giornali sono spesso faziosi, talvolta poco credibili o ispirati a obiettivi diversi rispetto a una corretta informazione. Ma in fondo i lettori e i quotidiani sono lo specchio, anche se parziale, di un paese in cui sembra che il dibattito politico sia affidato molto ai pettegolezzi. Ma che si legga meno non è un buon segno per la democrazia, perché la società cresce e offre più opportunità a tutti solo se cresce la possibilità e la capacità di informarsi, di dibattere, di non essere d'accordo. I giornali aiutano comunque a riflettere. Sono e devono restare un pilastro della democrazia, così come l'informazione e la libera discussione sulla radio, soprattutto su Radio 24. In questo periodo di provvedimenti anticrisi, dibattiti sui dialetti a scuola o gabbie salariali, un silenzio imbarazzante proviene dal PD, dalla preparazione del congresso d'ottobre, dai due principali candidati alle primarie, Bersani e Franceschini. Si coglie un tale silenzio da tramortire per rumorosità. Non dicono nulla, perché nulla hanno da dire. Non si contrappongono idee o visioni del paese, seppur nello stesso ambito diverse, ma si contrappongono due feudatari, i cui padroni, D'Alema e Veltroni, si contendono il partito da più di un decennio. Non esiste un dibattito perché non vi sono idee, né contrapposte tra Bersani e Franceschini, né alternative alla PDL. La verità è che l'unica musica che si sentirà al congresso sarà un requiem. Il PD non è né una forza di sinistra né di centro, ma semplicemente non è un soggetto politico, cioè non è un partito. È una cozzaglia di feudatari, depositari ciascuno di un numero di voti dei loro feudi storici, che si sono uniti e rimangono uniti nella speranza di accaparrarsi dei posti di potere a livello nazionale. Visto che il pericolo più pubblicizzato dagli avversari di Berlusconi è il suo modo di governare e il conflitto di interessi, va detto che la mancanza di un'alternativa al PDL rappresenta il definitivo collasso della classe dirigente che ci ha governato negli ultimi 20 anni. Questa mancanza di alternativa è da addebitare principalmente al fallimento del progetto Partito Democratico. Peraltro il Partito Democratico non si dissolverà nemmeno come accadde a DC o PSI negli anni 90, per il semplice motivo che non è mai nato. Il Partito Democratico è nato morto, senza idee né anima. Bersani o Franceschini, poco importa chi dei due, sarà segretario di un partito zombie. In questo sonoro silenzio speriamo in una morte celere del Partito Democratico, nella speranza che un soggetto serio possa nascere a sinistra, anche in Italia. Massimiliano. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.